Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Beh, anche il mondo dello sport ovviamente è coinvolto in una tragedia di queste proporzioni. A Viareggio abitano, è nato e ci vive Lippi, ci abita Collina, che è originario bolognese. Collina poco fa ha raccontato, dice: la stazione non è vicinissima a casa mia, ma ho sentito il rumore di un tuono fortissimo, speravo fosse uno di quei temporali che ci sono d'estate nelle montagne dietro Viareggio, cioè sulle Alpi Apuane, e invece era questa tragedia. Questo vi ripeto, Pierluigi Collina, designatore arbitrale dell'AIA. La nostra puntata, tempi un pochino più ristretti, parte subito dopo gli aggiornamenti sul traffico, una sorta di putpurri sullo stato dell'arte del calcio italiano. Buon pomeriggio dunque, essendo questo il mio ultimo appuntamento di stagione con voi, da domani toccherà Carlo Genta alla conduzione del Tempo di Sport. Ho pensato, vi dicevo prima, a una puntata di aggiornamento sullo stato dell'arte del calcio italiano attraverso una serie di notizie attuali, molto molto attuali, anche di giornata, riflessioni, proiezioni, precedute però da due vostre lettere, due mail che ho scelto come degli editoriali. La prima è firmata da Enrico Cristiano, ha scritto da Modena. Le scrivo perché in questi giorni, parlando di crisi economica che sembra colpire soprattutto il calcio italiano con conseguente fuga di grandi campioni, ho sentito spesso ascoltatori rallegrarsi per la conseguente presunta rivalutazione dei settori giovanili. Se così fosse, molto bene, ma quello che mi chiedo è: sarà vero che l'addio di grandi campioni porterà a puntare sui giovani italiani? Non mi sembra si parli di valorizzare le giovanili, di chiudere le frontiere, aperta parentesi, questo non è più possibile con la legge Bosman, e nemmeno di ridurre il numero di stranieri. Anzi, proprio in questo periodo si parla di introdurre la possibilità di tesserare un ulteriore extracomunitario oltre i due già previsti. Dai nomi che si fanno, mi sembra che si punti ancora molto sugli stranieri, nemmeno più di primo pelo, o su italiani esperti, cavalli di ritorno, che evidentemente qualcuno ritiene ancora utile alla causa. Insomma, siamo sicuri, concludendo, che la crisi economica e l'esodo dei grandi nomi, anziché regalarci un campionato più povero ma più giovane, non porterà invece una Serie A comunque imbottita di stranieri di seconda o terza fascia? E questo è il primo degli interventi. Il secondo, che suona di più da editoriale vero e proprio, è firmato da Oliviero Tacchella. Ed è testualmente questo. Beh, questa crisi non mi dispiace, scrive Oliviero. Non mi dispiace che i nostri presidenti, loro malgrado, non accettino più di sborsare cifre incomprensibili. Non mi dispiace questa crisi perché finalmente costringerà le società a ripensare la politica dei vivai. Non mi dispiace che le nostre squadre, una volta ridimensionate, possano finalmente considerare un buon risultato l'eliminazione ai quarti di Champions, quando prima era una tragedia perdere la finale. Non mi dispiace tornare a pensare a un calcio più civile, ora che stava fuori da ogni regola morale ed economica. Non mi dispiace che tutto il movimento si fermi a riflettere su se stesso, tentando un rinnovamento di uomini e di struttura ormai ineludibile. Mi dispiace soltanto che tutto ciò sia chiamato crisi e non benedizione. E ho trovato davvero un guizzo d'alta scuola questo finale. A me dispiace, sempre per ricollegarmi a questo, ripeto, editoriale firmato Oliviero Tacchella, a me dispiace invece che quando si dice di tornare a un calcio più civile, beh, insomma, si parli anche di Luciano Moggi alla guida del Bologna, o comunque al rientro del Bologna. Ci sono già una serie di dichiarazioni su questa ipotesi, che peraltro al momento è tutta da verificare, ma la sola ipotesi ha già prodotto, per esempio, queste due, anzi adesso nel frattempo ne leggo una terza sull'ANSA, reazioni. Le prime due: Giorgio Guazzaloca, ex sindaco di Bologna: devo dire che leggendo il possibile arrivo di Luciano Moggi ai vertici del Bologna Football Club sono rimasto sconcertato. È un'ipotesi che, se si avverasse, umilierebbe la nostra città. C'è quella di Giancarlo Abete, presidente federale, che dice: non voglio fare processo alle intenzioni, anche perché non è detto che queste intenzioni ci siano e aspettiamo riscontri concreti. Ma come presidente della FIGC ha detto, non posso che ricordare che tutti coloro che operano nel sistema sportivo si devono riconoscere in quelle che sono le decisioni degli organi di giustizia sportiva, che tracciano il confine tra le persone che possono svolgere ruoli all'interno del mondo del calcio e altri che sono inibiti e non li possono svolgere. Insomma, ha ricordato che Luciano Moggi è tuttora oggetto o soggetto di squalifica da parte della giustizia sportiva, che terminerà, credo, nella migliore ipotesi nel 2011. Dopodiché la terza reazione di cui vi parlavo è che i tifosi del Bologna sono infuriati e ci sono i forum dei tifosi che registrano già migliaia di interventi di segno assolutamente contrario. È una voce che si è sparsa ieri, il fatto che i Menarini, e cioè i i proprietari del Bologna attuali non l'abbiano smentita, non solo non l'abbiano smentita con vigore, ma non l'abbiano smentita proprio, ha scatenato questa ridda di voci. Andiamo un pochino con ordine, con l'aiuto di Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che nel frattempo mi ha raggiunto. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Allora, questa vicenda del Bologna per il momento la lasciamo perdere, perché ricordiamo soltanto che non potrebbe assumere nessuna veste ufficiale in questo momento, credo, Luciano Moggi. No, lo ha detto Abete. Evidentemente così, e speriamo che non ce ne sia un'altra veste non ufficiale nemmeno per il bene del calcio italiano. Questa potrebbe essere una chiave di lettura. Dunque oggi è uscito, andiamo in ordine sparso, ripeto, oggi è uscito un tuo articolo su Sole 24 Ore, il cui titolo dice: il vivaio dilettanti resta senza premi. È un argomento che abbiamo sfiorato e accennato la settimana scorsa. Dà l'idea, ricostruito da te, come insomma, io l'ho letto, non tutti avranno letto il Sole 24 Ore, quindi adesso glielo riassumi, dà un po' un'idea di come questo mondo del calcio, dello sport in generale, cerchi magari di fare un passo avanti e ne faccia due indietro involontariamente. C'è un po' di schizofrenia talvolta tra nelle intenzioni dichiarate, soprattutto quando poi vengono confrontate con la realtà dei fatti. Ci sono decine e decine di squadre dilettantistiche o anche di società che fanno quel calcio giovanile di cui si è parlato prima, e che avevano lo scorso anno visto con speranza una decisione della Corte di Giustizia federale che riconosceva sempre a queste società il diritto a ricevere un premio di addestramento, di formazione, quando un loro calciatore si apprestava poi a firmare un contratto con un club professionistico, insomma dalla C2 in su. Premi che vanno da 23.000 euro a massimo di 90.000 euro, insomma non parliamo di cifre particolarmente comunque alte se confrontate appunto con gli ingaggi stratosferici. Certo, però premi di formazione, riconoscimento a chi alleva. Evidentemente, che per tantissime realtà del calcio italiano rappresentano uno stimolo importante a curare quel vivaio di cui si parlava. Quando si parla del calcio italiano, no, si hanno in mente i club di Serie A, il Milan, l'Inter, la Juve, ed è giusto che sia così. Però i club professionistici sono 130 più o meno dalla Serie A alla Serie C2. Invece esiste una miriade di società, parliamo di più di 10.000 società che giocano sostanzialmente dalla Serie D alla terza categoria e che rappresentano l'ossatura non solo appunto ai fini dei vivai, ma anche perché rappresentano, diciamo, quella platea enorme di tifosi che poi seguono il calcio italiano e che legittimano poi le richieste alle TV, per esempio per quanto riguarda i diritti televisivi, che sono la fonte maggiore di reddito. Ora, se alla base questo processo di selezione viene interrotto perché a queste società, nonostante, ripeto, una sentenza favorevole della Corte di Giustizia federale, poi non si riconosce questo premio perché si dice sostanzialmente che i giocatori poi, se riescono a ottenere lo svincolo, si chiama, una sorta di liberatoria, possono fare il contratto con le squadre professionistiche senza che questo premio venga riconosciuto, quando la Corte di Giustizia federale, ripetiamo, ha detto nello scorso maggio il contrario, e come dire, gli uffici della FIGC non sono veloci nel smaltire queste pratiche e di fatto fanno scadere i termini. Come è accaduto, significa che proprio, insomma, che non ci siamo, che manca qualcosa, tant'è vero che Tavecchio, che è il vicepresidente della FIGC, nonché il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, appunto mi ha detto ieri che i professionisti hanno tradito i dilettanti e che discuterà animatamente con Abete, vediamo quello che succede. Certo. Vicenda significativa. Sfoglio sempre il Sole 24 Ore di oggi e trovo una lettera nella rubrica della posta curata da Salvatore Carrubba. Trovo una lettera. Un lettore del Sole, chiedo scusa, di Milano, Bruno Moltedo, si è preso la briga di fare due righe di conti su Cristiano Ronaldo. Scrive, aprendo la stampa, che il calciatore Cristiano Ronaldo riceverà 13 milioni di euro a campionato. Perché amo fare i conti? Ho calcolato che un modesto impiegato operaio con stipendio mensile di 1.500 euro, pari a 19.500 euro l'anno, dovrebbe lavorare per incassare l'ingaggio di Ronaldo 668 anni. Vabbè, questo è un divertissement, ma di quelli che poi divertono poco, no? Nel senso che da questa parte, in questo conteggio, c'è il consueto pizzico di demagogia, dall'altra parte c'è una follia totale che sta, tra l'altro, proprio a Madrid. Oggi è la giornata di presentazione di Kakà. Sogghigno, perché vedo di là dal vetro il vecchio cuore rossonero che sanguina, in regia Cacà è atterrato da Madrid, proveniente da Johannesburg, ha già fatto qualche foto all'aeroporto di Barajas, stamane con i dipendenti e i passeggeri dello scalo, sarà presentato stasera ufficialmente alle 20.30 al Bernabeu, evento per il quale sono attesi 20.000 tifosi e va bene, e oltre 500 giornalisti provenienti da tutto il mondo, che veramente non mi spiego invece perché dove sarà la notizia e dove sarà la ragione, no? di invadere Madrid per una presentazione di un giocatore, notizia vecchia di un mese, francamente non riesco a coglierla. Torniamo invece a qualcosa, Marco, che ci può aiutare a capire. Per esempio, la situazione Roma, questo sfogo violento ieri di un avvocato, da cui poi Fioranelli mi pare che stamane abbia già preso le distanze, tra l'altro. A che punto è questa cessione vera o presunta della Roma? È un caso enigmatico di come vadano a volte le cose nel calcio italiano. C'è sempre, come dire, una sorta di mancanza di serietà, oserei dire, comunque di pressappochismo nella gestione di queste situazioni, e ce ne sono state tante di queste vicende, alcune anche con rilievi penali e nella stessa Roma, anche se erano sulla sponda laziale. Anche qui forse manca quella chiarezza con il pubblico, che sarebbe tra l'altro doverosa, perché la Roma, ricordiamo, è una società quotata. Fatto sta che per il momento, se vogliamo porre dei punti fermi, c'è il fatto che l'offerta Fioranelli viene giudicata in maniera negativa da Mediobanca, che è l'advisor di Unicredit, che è creditore di oltre 300 milioni dalla Italpetroli, che controlla la Roma, insomma questo è il quadro finanziario. Certo. Unicredit, come tutte le banche del mondo, ha sofferto la crisi economica e vuole rientrare da questo debito. Oggi scade la seconda rata del debito che doveva essere pagato dalla famiglia Sensi e che probabilmente, anzi, non verrà pagato, togliamo probabilmente. È chiaro che a questo punto ci si creano, voglio dire, scenari molto molto preoccupanti. Tra l'altro si dice che questi soldi di Fioranelli ci sarebbero, ma che l'advisor Mediobanca dubiterebbe della loro provenienza, per esempio. E forse, non so, dovevano aspettare lo scudo fiscale, faccio una battuta. Fino a un certo punto, mi sa. Lo scenario, si è parlato addirittura di una possibile asta, dove sicuramente la famiglia Sensi otterrebbe meno dei 200 milioni che richiede per il 67% della Roma. La famiglia Sensi naturalmente ha un asset importante nella Roma, gli altri asset, quelli immobiliari, sono come dire, nel loro valore diminuiti per effetto della crisi e della depressione del mercato immobiliare. È evidente che è una situazione molto complicata, anche perché una società seria, qualora volesse come dire, acquisire il club, dovrebbe farlo rapidamente, perché si deve programmare una stagione, cioè una campagna acquisti da fare, che si apre ufficialmente domani. Insomma, una situazione che si sta ingarbugliando settimana dopo settimana, e non si capisce perché appunto l'advisor Mediobanca non dichiari ufficialmente, visto che continua a concedere proroghe a Fioranelli, se l'offerta c'è o non c'è, se è valida o non valida, aprendo semmai ad altri possibili acquirenti. Si capisce, anche perché tu ricordavi giustamente che si apre ufficialmente il calciomercato, si apre anche il raduno della Roma dopodomani, perché la prima a tornare al lavoro per via delle qualificazioni alla prequalificazione alla zona, alla Coppa UEFA. Torniamo in onda con altre munizioni, vi dicevo, per esempio il nuovo pallone, no? A cavallo tra quello che sta succedendo, succederà in estate, e come inizierà la nuova stagione. Il nuovo pallone, che verrà usato nella prossima stagione in Serie A, in B, in Coppa Italia, in Supercoppa, campionato primavera, si chiama Total 90, è ovviamente creato dal Nike, che per il terzo anno fornisce il pallone unico alla Lega Calcio in cambio di un robusto e oneroso contratto. Sarà un pallone rosso argento, quindi un altro anno questo sarà il colore del pallone. Il rosso argento sinceramente mi sfugge, perché una volta, a parte che una volta il pallone era di cuoio quando sono cresciuto io, e questo denuncia già l'anagrafe, ma insomma, ed erano del colore del cuoio, ma il rosso argento come colore mi risulta, che ne dici, Marco? Beh, credo che si ispirino forse alla Ferrari, non so. Sì, qualcosa del genere, comunque mi lascia perplesso, sempre più perplesso. Sfugge, sarà un bel pallone, dai. Io sono affezionato al vecchio vecchio pallone a spicchi bianco e nero. Semplicemente bianco, bianco e nero. Continuiamo in ordine sparso, Cacà l'abbiamo visto. Maicon, Facciamo, sì, ci sono anche degli ascoltatori già in attesa, mi fanno un cenno. Allora dai, spazio a Giuseppe da Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno dottore, mi ascolta? Buongiorno a lei, dica. Sono fermato per non contravvenire una volta tanto. Meno male. Ascolti dottore, io gli faccio complimenti perché sono già intervenuto tante volte, però volevo solo far presente che la Federazione Italiana Gioco Calcio, alla quale siamo tutti affiliati, dalla Inter, Milan, ma anche al Madonna dell'Acqua di Pisa, che fa il settore giovanile, non è capace di garantire ai loro vivai, ai loro associati, che un ragazzino che viene trasferito dalla, ripeto, Madonna dell'Acqua di Pisa, che va a un'altra società, qualunque essa sia, la federazione non è capace di garantirci il riconoscimento del parametro, il quale parametro è stato stabilito da loro, da lor signori, non da noi. Certo. Questo è il minimo, perché avvengono delle cose che, ripeto, basterebbe vedere quel nome di ragazzo dove passa alla società successiva e trasferire tramite il conto corrente, che loro lo usano bene per addebitarci, se facciamo una nota sbagliata, trasferiamo la matricola, la data di nascita viene sbagliata, ci fanno una multa. Questo è il primo della cosa. Poi c'è un'altra cosa molto grave, noi dobbiamo produrre, io sto parlando per la federazione perché non ho molto spazio in una trasmissione così importante, noi dobbiamo produrre cartellini tutti gli anni del 2002, del 2003, del 2004, del 2005, riproducendo sempre certificato di nascita, comune di residenza, firma del padre, firma della madre, una documentazione cartacea che è un fascicolo, tutti gli anni anche quando non cambia nulla. E poi mi scusi, io insisto per il parametro, perché venga riconosciuto. Ma certo, ha ragione. E poi l'ultima cosa, ma io mi insisto perché la federazione dovrebbe garantirci, perché se un ragazzo cambia di nome, di cartellino, non c'è bisogno di essere istruiti, basta andare sul computer e trasferire quanto dovuto. Certo. Invece ora pretendono che il genitore e la società rinuncia al parametro, e questa lettera va mandata in federazione, ma stiamo scherzando? Voglio dire, questo è chiaro che è un'estorsione, no? Perché sennò dici, io invece di prendere il bimbetto tuo piglio quello di quell'altro, e sto parlando anche a livello degli allievi che in certi momenti hanno anche un certo valore. L'ultima cosa, una parentesi su Moggi, poi lasci stare, non rovini un intervento bellissimo, perché a parte la parola estorsione, facevo anche l'arbitro, mi scusi, sì, mi hanno insegnato che quando ti viene proposto qualcosa di non dovuto, dove vai, tu non devi accettare. A me arbitro di settore giovanile. Vabbè, l'ho detto, guardi, gliel'ho detto Giuseppe, se finiva prima, cioè, no, fin lì era stato da 9, poi questa per carità ci può stare, ci stava meno quella parola estorsione, sì, forse alla fine dal punto di vista tecnico-giuridico non parlerei in questi termini della questione. Infatti io ho visto Marco Bellinazzo che ha annuito, convinto per tutta la durata dell'intervento, perché questo signore che ringrazio davvero per la passione che ci ha messo e perché ha raccontato una grande verità che travaglia il nostro calcio minore, quindi lo ringrazio davvero per questa cosa, ha annuito fin lì, poi la parola estorsione si è un po' irrigidito. Ma il problema esiste, c'è questa mancanza di chiarezza della federazione, che potrebbe tra l'altro semplificare queste procedure migliorando la vita e eliminando un po' di burocrazia, certo. Ma in ogni caso la federazione, e mi pare che ci fosse un accordo con Tavecchio, stando alle parole di Tavecchio, quindi a favore dei dilettanti, che non sia stato rispettato. E la Lega, se vuole, la Lega Dilettanti, credo insomma debba fare qualcosa a questo punto per far valere i propri diritti. Parliamo di diritti e non di pretese. Certo. E ne va del futuro del calcio italiano, di cui vivai, di cui abbiamo parlato e di cui non si parla mai abbastanza. Ho l'impressione anch'io. Se parliamo di vivai, dobbiamo anche rilevare la chiusura che la FIGC ha fatto nei giorni scorsi della sua scuola calcio. L'ha raccontato ieri a Repubblica Sormani. La scuola calcio della federazione non esiste più, una storia lunga 47 anni, chiusa proprio mentre Abete agli europei Under 21 dichiarava dobbiamo investire sui giovani. Poi ci sono state polemiche perché si è parlato anche di quote già pagate per l'anno prossimo, che la cosa che invece non era vera, perché oggi il giornale ha pubblicato una smentita. È una cosa ancora troppo fresca per avere elementi concreti. La seguiremo, la seguirà in particolare Marco Bellinazzo nei prossimi giorni, però certamente è stato un altro episodio sconcertante che riguarda, come dire, il calcio minore o il calcio giovanile e i suoi rapporti e l'operato federale. Fabio ha chiamato dalla Spezia, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Prima di tutto, vuoi esprimere solidarietà agli amici di Viareggio? Beh, certo. Si stato vicino sia fisicamente che moralmente al loro dramma, e quindi ecco, volevo iniziare in questa maniera per non dimenticare questi problemi giganteschi. E volevo dire una cosa su quello che in qualche modo può essere definito un po' una sorta di declino calcistico, anche se forse è esagerato chiamarlo così, dell'Italia, sia a livello nazionale che a livello di club. Io non sono uno specialista, non è che sono un grande esperto di calcio, però ho questa impressione. Fra i fattori che hanno giocato su questo gioco, su questo declino, c'è un po' quello di essere stati raggiunti sul piano, diciamo così, tattico. Ovvero sì, per decenni, secondo me, l'Italia, le squadre italiane, sia di club che nazionale, hanno un po' vissuto di rendita su una sorta di superiorità tattica, soprattutto nei confronti di calcio, del calcio brasiliano, del calcio inglese. E poi ovviamente queste nazionali, queste nazioni calcistiche ci hanno raggiunto su questo piano. Questo è quello che era un vantaggio che, diciamo, in qualche modo... Sì, questa è una buona riflessione, Fabio. In effetti non so se in tutto, ma certamente almeno in parte così, sommata al crollo della scuola difensiva italiana, perché quando non c'erano grandi momenti tattici o c'erano covate di scarso talento, ci si aggrappava alla difesa, no? Che era quello che mandava in bestia le nazionali di tutto il mondo, e comunque produceva risultati. Oggi queste due cose, poi se ripensiamo al 2006, credo che sia proprio... No, la prova del 9, insomma, di questo accaduto. Continuiamo con le notizie. Allora, clausola rescissoria, ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Oggi la Fiorentina l'ha applicata per la prima volta, perché ha prolungato il contratto a Felipe Melo fino al 2013 e ha inserito una clausola rescissoria tra i 20 e i 22 milioni di euro. Marco, questo direi che è un'osservazione di passaggio. Ho letto che Gagliani dice: la clausola rescissoria noi non la metteremo perché vogliamo l'ultima parola sul giocatore. Significa cosa questa? Che la rescissoria è automatica a quel punto? Nel senso che la clausola rescissoria funziona quando è una barriera effettiva. Per esempio, si è parlato di una fantomatica cifra di 1 miliardo di euro come clausola rescissoria del contratto di Ronaldo Real Madrid. Sì. Insomma, non sarà così, ma in ogni caso quella è evidentemente una barriera. 20-22 milioni nel caso di Felipe Melo non sono una clausola così esorbitante, per cui è chiaro che si rimane nell'ambito della trattativa e la società ha comunque un peso e può decidere, può ancora decidere. Si può gestire più liberamente, almeno. Certamente fa più rumore il fatto che Maicon in modi alterni, perché ieri per esempio abbiamo ospitato un suo intervento da Sudafrica che era molto garbato, insomma, in cui sotto forma di battuta diceva: beh, insomma, se l'Inter volesse riconoscermi qualcosa di più, visto la Confederation che ho fatto, va bene, Confederation che ho fatto, poi si può discutere, ma non si discute il fatto che abbia chiesto un altro ritocco dopo, leggo dalla Gazzetta, dopo essere stato questo suo contratto con l'Inter aggiornato nello scorso dicembre, passando da 1,8 milioni a 3 e destinati a salire fino entro il 2013 a 3,5, cioè Maicon ha già ottenuto il doppio, esattamente il doppio, 6 mesi fa, ma avendo fatto un paio di cross interessanti nella finale della Confederation Cup, bussa ad altri quattrini. Ho dei messaggi sotto il naso dei tifosi interisti che dicono: ma quando è che questi li mandiamo a spasso? E sono gli interisti che scrivono. È un malcostume che riguarda tantissimi giocatori. Allora dovrebbe essere concesso a questo punto alle società di abbassare gli ingaggi in presenza di prestazioni poco elevate dal punto di vista tecnico, certo, insomma, dovrebbe essere bilaterale questa facoltà. Al di là della battuta, chiaramente c'è un mondo di procuratori che cerca di trarre vantaggi ad ogni passaggio fortunato, positivo della carriera di un calciatore, e le società in questo senso sono poco tutelate dal punto di vista contrattuale. Le federazioni dovrebbero essere più presenti e magari squalificare o dare comunque delle multe a quei calciatori, a mio avviso, che continuamente chiedono aumenti di ingaggi, minacciando più o meno di andar via. Non è un comportamento, diciamo, leale e corretto, non si dà il buon esempio. La federazione potrebbe, a mio avviso, vigilare su questi casi. Sì, io credo che la federazione dovrebbe vigilare più su quello che diceva Giuseppe da Pisa prima e che tu hai raccontato oggi sul Sole. Cioè, credo che il suo ruolo istituzionale questo le imporrebbe innanzitutto, perché qui ne va della salute vera del calcio italiano, là stiamo parlando di ricchi, e se anche i ricchi ogni tanto piangono, no, il dispiacere tutto sommato lo teniamo sotto controllo. Le piccole società o i dilettanti che devono salire di categoria, è tutta un'altra storia. Si ferma il meccanismo che è la radice stessa del concetto di sport. Il ripasso di storia, cos'è successo nello sport il giorno 30 giugno di chissà che anno, ce lo racconta come sempre Nicola Filippone. Sembra ieri. 30 giugno 1994, colpo di scena ai mondiali di calcio. A Dallas, il comitato organizzatore della FIFA comunica che il giocatore trovato positivo all'efedrina è Diego Armando Maradona, rientrato in grande stile nel ruolo di trascinatore della favorita argentina. Il fuoriclasse si difenderà sostenendo di essere vittima di un complotto. Sarà squalificato per 15 mesi. In seguito a questa vicenda, la nazionale argentina perderà la bussola e sarà eliminata clamorosamente agli ottavi di finale dalla Romania. Prima di Maradona c'erano stati due precedenti di doping nella storia dei mondiali. Il caso dell'haitiano Ernest Joseph nel 74 e quello dello scozzese Willie Johnston nel 78. Torniamo a oggi con una buona notizia questa volta, secondo me. Il fatto cioè che per la finale di Supercoppa italiana, che verrà genialmente giocata a Pechino l'8 agosto prossimo tra Inter e Lazio, non c'è una sola offerta né radiofonica né televisiva. Non c'è copertura al momento, nel senso che non c'è al momento, ma dato che scade il 30 giugno, il bando scadeva il 30 giugno 2009, scade e quindi restano poche ore. Quale può essere l'interpretazione, Marco? Che o qualcuno aspetta, o tutti aspettano l'ultima ora per un'offerta al ribasso, oppure non gliene può fregare meno, come direbbero. Diciamo che più probabile la prima. In ogni caso è una testimonianza di un interesse relativo, insomma, per una partita collocata a inizio stagione. E in teoria è la partita che dovrebbe aprire la stagione 2009. Sì. 2010. Andarla a giocare in Cina può essere importante per il mercato delle squadre, insomma, per il merchandising, per penetrare un territorio vastissimo con tanti tifosi comunque affezionati alle squadre italiane. Forse c'è un po' meno di interesse nel trasmetterla in Italia questa partita, ma alla fine qualcuno presenterà un'offerta. Qualcuno al vivo si farà, ma certamente non un'operazione che nasce anche per i diritti televisivi, in ogni caso, no? per acquisire. Per fienare, no, usando un'espressione un po' meno raffinata, mi sembra che da questo punto di vista stia tirando su poco al momento. Massimo, provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini, e buongiorno al suo ospite, che come al solito è sempre così esauriente e ci fa capire tante cose nel mondo dello sport e soprattutto della finanza. Parente? I bilanci, i conti, le clausole che continuano a mettere dentro, i ritocchi dei calciatori e tutto il resto, sapendo come tante volte le società non sono veramente tutelate, perché io vorrei prendere spunto proprio dall'articolo che lei ha letto in apertura e fare una piccola osservazione. Sì. Come mai, ripeto, tutti i presidenti non avrebbero, cioè non si siedono a tavolino e applicano tutta la stessa usano lo stesso peso e misura per quanto riguarda i calciatori. Quindi lei dice un gentleman agreement. Non ho capito, mi scusi. Sì, no, è un termine che si usa, cioè un patto d'onore, si dice gentleman agreement. Il problema è che agreement si può pure fare, sono i gentleman che sono da trovare, capito? Però di massimo, a questo proposito vorrei fare, non so se è opportuno o meno, il nome di un presidente. So che a lei non gli sta tanto simpatico, certo, per i modi che lui ha, però prendiamo Zambarini, mi sembra che è uno di quelli che se qualcuno va a bussare alla porta il terzo giorno si ritrova fuori squadra. Per me sarebbero da ammirare quei presidenti lì. Sì, se così fosse, Massimo, sì, e se tutti i comportamenti di Zambarini fossero improntati alla virtù, come lei suggerisce, perché no? Assolutamente, non è una questione di antipatie personali, diciamo che è una questione di metodi di conoscenza dei polli, mettiamola così. Marco. Beh, direi che c'è stato e c'è in alcune società il tentativo di raddrizzare queste situazioni. Mi viene in mente, per questioni di vicinanza, diciamo di nascita, quello che per esempio ha fatto il Napoli e sta facendo il Napoli con Lavezzi, che è scappato praticamente 4 giorni prima della chiusura ufficiale della stagione. Si sono millantate offerte del Liverpool, svariati milioni, certo. Il Napoli ha tenuto duro e non darà, meno quello che mi risulta, un aumento di ingaggio che è stato chiesto dai procuratori. Non tutte le società lo fanno, non sempre è semplice farlo. Sicuramente chi dà il buon esempio deve essere supportato dalle rispettive tifoserie. In questo caso il rapporto tra società e tifoserie è fondamentale, a mio avviso. Non c'è dubbio su questo. Faccia qualcosa, mi chiede Dino, affinché la ricezione su 87.8 e 88 a ridosso delle province di Ascoli Piceno e Teramo vengano ripristinate. Dirlo è già quasi come farlo, caro Dino. Speriamo che anche stavolta funzioni come sempre. Marco, ci sono, stiamo parlando di appunto aggiornamenti contrattuali richiesti in maniera ufficiale, richiesti in maniera più subdola, sussurrati, automaticamente destinati a realizzarsi per quieto vivere, altri che invece verranno rifiutati, addirittura Zamparini additato a esempio di virtù manageriale. Qual è lo stato dell'arte, per usare la stessa espressione con cui abbiamo iniziato questa puntata, da un punto di vista economico-finanziario a questo momento del calcio italiano? Te lo dico perché leggo perché si sa che per esempio il Milan sta andando in una direzione e altre società non mi pare. La dichiarazione fatta da Galliani e dallo stesso Berlusconi relativa alla vendita di Kakà, no? Da oggi si cambia, ci sarà più attenzione ai bilanci, segna sicuramente un'epoca del calcio italiano, sì. Quella del rigore nei conti e di una gestione in generale più parsimoniosa. Sicuramente c'è da dire che il calcio italiano sta meglio di altre realtà come la Premier League e la Liga Spagnola dal punto di vista dei debiti. Ne abbiamo meno, ma non vuol dire che non ce ne siano, anzi, per cui benvenuto insomma questo nuovo clima. I tifosi chiaramente possono guardare la cosa da due punti di vista. Sicuramente a chi interessa soltanto il campo e la squadra non farà piacere che ci sia appunto questo impoverimento tecnico, perché perdere Kakà o, come si è detto, per esempio Ibrahimovic o Maicon per quanto riguarda l'Inter, anche se sembra dalle ultime notizie che non saranno ceduti, sarà una perdita importante per il calcio, sì, italiano, soprattutto se non sarà colta l'occasione per rimpolpare le squadre con giovani talenti magari fatti in casa. C'è da dire che il calcio mercato, la stagione di calcio mercato che si apre ufficialmente domani, anche se insomma moltissimi contratti sono stati fatti o non saranno fatti, per se è già tempo, deciso, certo, sarà un calcio mercato in sordina, con pochi colpi, molti scambi di figurine, diciamo, di calciatori, e si aprirà una stagione importante per il calcio italiano, ma una stagione che deve essere di politica sportiva. Stadi di proprietà, la Juve è partita con questo progetto, molte squadre vogliono farlo, c'è una legge in Parlamento che potrebbe aiutare a costruire stadi più moderni, nuove regole per la gestione dei vivai, un'attenzione maggiore a quello che è il rapporto tra stipendi e profitti. Le squadre italiane spendono oltre due terzi per gli ingaggi, e questo, certo, e questo sballa, effettivamente sballa i conti. Il Milan vuole ridurre del 20%. È l'occasione, i momenti di crisi sono sempre l'occasione, o dovrebbero essere sempre l'occasione, per rivedere le regole di base. Ci auguriamo che quest'estate porti consiglio a tanti presidenti. Ultima domanda, perché siamo quasi in chiusura. Abbiamo letto e parlato a lungo nelle ultime settimane dei deficit sia individuali che complessivi, individuali nel senso di società che complessivi nel senso di movimento, di inglesi e spagnole, per esempio, in maniera particolare. A che punto siamo in Italia, che abbiamo un po' perso di vista dal punto di vista dei grandi numeri? Diciamo che siamo, come abbiamo detto, Spagna e Inghilterra, oltre i 3 miliardi di euro di sterlino di indebitamento totale dei movimenti, diciamo, delle massime serie. Sì. In Italia c'è una perdita gestionale per ogni anno di 300, intorno a 200-300 milioni. Sui debiti pubblicheremo insomma nei prossimi giorni un resoconto più dettagliato. Pubblicheremo sul Sole, intendi? Sul Sole, certo. Sul Sole, parlo del Sole. siamo su un livello, diciamo, più basso, ma in qualche modo preoccupante. Il Milan, per esempio, che ha 77 milioni di passivo sull'ultima gestione, ha comunque un debito per quasi 400 milioni. Per questo, voglio dire, l'attenzione ai bilanci si fa molto molto rigorosa, altrimenti si finirà, insomma, in situazioni come quella della Roma, sicuramente poco gradevoli per i tifosi. Certo. Siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata, sicché ringrazio Marco Bellinazzo per il suo intervento, Fabio Cantadori in regia, Flavio Suardi in redazione, tutti voi che ci avete seguito, dandovi appuntamento personalmente a settembre, e invece per quanto riguarda l'appuntamento con la Tempo di Sport, da domani in compagnia di Carlo Genta. Buon pomeriggio.